cielo, acquetati, o grido, grido dell'onore, avrai sicuro vindice quest'onta l'avvero. O mio suor, o infamia, così quest'onta l'avvero, si l'avvero. O mio suor, o infamia, o se quest'onta, si quest'onta l'avvero, quest'onta, quest'onta l'avvero. Rimorso infamia, io vissi in tal errore, ma il turpe sonno a frangere, il vermi valero. Per poco in cielo acquetati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'onta l'avvero. O mio suor, o infamia, quasi quest'onta l'avvero, si l'avvero. O mio suor, o infamia, quasi quest'onta, si quest'onta l'avvero, quest'onta, quest'onta l'avvero. Amor, merce,

vita inferno all'infelice, in vano morte desio. Si Amen.

tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. aspetterò anche un ritorno impossibile. Sembra possibile per me. Ti aspetterò e dico che tornerai. È la speranza bugiarda che per me, accanto a te, per tutto il giorno.